Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Il Covid non molla la presa in Francia, oltre la metà del paese diventa zona rossa. Elezioni, seggi aperti ancora per 2 ore, poi dalle 15 via allo spoglio di referendum regionali, ieri sera affluenza al 40%. Tragedia a Rivara, nel Torinese, un uomo di 47 anni spara al figlio e poi si toglie la vita. Calcio Serie A al via con le vittorie di Juve e Napoli e stasera tocca al Milan. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Si sono dunque aperti questa mattina alle 7 i seggi per la seconda giornata delle consultazioni elettorali. Si vota per il referendum costituzionale, ma anche per le suppletive e soprattutto per le elezioni regionali e amministrative. Nel primo giorno di votazione, ieri sera alle 23, era stata raggiunta la soglia quasi del 40% per quanto riguarda il voto al referendum e del 41,4% alle regionali. Si vota fino alle 15. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina nella sua Palermo, mentre a Città di Castello la signora Luisa di 109 anni si è presentata regolarmente come fa dal 1946. Nella notte furto di una pistola a un vigilante nel seggio Parisi De Santis di Foggia, ma la polizia assicura che i sigilli sulle urne non sono stati violati. L'affluenza al referendum ieri sera 39,4% andrà confrontata nel dato finale delle 15 con il 65% del referendum sulla riforma Renzi del 2016 e con il 52,4% del voto 2006 sulla riforma Berlusconi. Alle regionali affluenza più alta ieri sera 41,4% da confrontare con il 54% finale nelle stesse regioni nel 2015. Come sempre più alto l'afflusso alle comunali, ieri sera 49,6%. Lo spoglio comincerà alle 15 partendo dal referendum, ma già alle 15 saranno diffusi gli exit e instant poll su referendum regionali e nel corso del pomeriggio le proiezioni sui dati reali e infine i risultati ufficiali. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Risultati che naturalmente seguiremo in diretta su Radio 24 a partire proprio dalle 15 con un lungo speciale. E per quanto riguarda la cronaca, c'è ancora da segnalare che un militare della Guardia di Finanza in servizio un seggio elettorale di Foggia ha subito nella notte il furto della pistola di ordinanza. Stando a quanto ricostruito finora, sembrerebbe che il finanziere sia stato narcotizzato, si sarebbe svegliato verso le 4 del mattino accorgendosi di non avere più la sua pistola. Nuovi casi di coronavirus in forte crescita ancora negli Stati Uniti e in India. In Europa sono in leggero calo, ma ancora molto alti i numeri del contagio in Francia, oltre 10.000 in un giorno, tanto che da oggi oltre la metà dei dipartimenti francesi è stato dichiarato zona rossa. In Francia la seconda ondata di coronavirus si avvicina a grandi passi. La maggior parte del territorio è diventato zona rossa, con più di 50 dipartimenti pronti a una nuova stretta. In queste zone i prefetti potranno ormai adottare misure ulteriori per frenare la circolazione del Covid-19, come a Lione, dove sono attese per oggi nuove restrizioni, mentre la situazione negli ospedali comincia a farsi critica. Ma il giro di vite previsto dal governo non include le scuole. A partire da domani il protocollo sanitario nelle elementari e materne verrà allentato per evitare nuove chiusure. Quando uno studente verrà trovato positivo, i suoi compagni potranno continuare a seguire le lezioni senza essere considerati a rischio. L'isolamento, l'identificazione e l'eventuale chiusura delle classi scatteranno a partire dai 3 casi confermati nella stessa aula. Les enfants non seulement font très peu de forme grave voire pas du tout et ensuite sont très peu contaminants, c'est-à-dire qu'il y a peu de contamination. I bambini non solamente presentano poche o nessuna forma grave, ma sono inoltre poco contagiosi. Ci sono pochi contagi tra di loro o con gli adulti, ha detto il portavoce del governo, Gabriel Attal, intervenendo ai microfoni di France Inter. Una misura presa su indicazione dell'Alto Consiglio per la Salute Pubblica, dopo che 89 scuole hanno già chiuso i battenti. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E veniamo alla situazione in Italia. Stabile nelle ultime 24 ore il numero dei contagi, oltre 1.500. I mesi del Covid hanno fatto emergere la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di assistenza sociosanitaria per la popolazione più anziana. Così il ministro della Salute Roberto Speranza spiega le ragioni che hanno portato a istituire una commissione ad hoc per proporre le necessarie riforme. A presiederla sarà Monsignor Vincenzo Paglia, gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Anche i luoghi di lavoro non sono indenni. Al 31 agosto sono stati denunciati all'INAIL 52.209 contagi, pari al 19,4% del totale, e circa un terzo dei casi mortali riguarda personale sanitario e socioassistenziale. Resta stabile in Italia il numero dei contagi nelle ultime 24 ore, 1.587, calano a 15 i decessi, una situazione di vantaggio rispetto all'Europa. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, a 24 Mattino. Un pizzico di questo vantaggio l'abbiamo perso durante un'estate non eccessivamente, diciamo, governata da comportamenti virtuosi. Adesso la scuola è una verifica che vedremo nelle prossime settimane. Sfiorano i 200.000 decessi gli Stati Uniti, il paese più colpito, mentre il numero di casi è arrivato a 6,8 milioni. In India 5,4 milioni di casi, ma il Taj Mahal riapre ai turisti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la cronaca. In Italia, tragedia nella notte in un'abitazione a Rivara, in provincia di Torino. Un uomo di 47 anni, un operaio di un'azienda meccanica, ha usato una pistola che deteneva illegalmente per uccidere il figlio di 11 anni. Poi, con la stessa arma, si è sparato. Sono ancora in corso le indagini per stabilire dove Claudio Poma, 47 anni, abbia recuperato la pistola con la quale questa notte ha ucciso il figlio di 11 anni per poi togliersi la vita. È accaduto a Rivara Canavese, nel torinese. L'uomo, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato un'arma non legalmente detenuta, ultimo tassello di una storia che lascia un'intera comunità attonita. L'uomo soffriva di depressione ed era in cura, ma nessuno lo riteneva pericoloso. Pochi istanti prima di sparare aveva pubblicato una lunga lettera d'addio su un social network ed è proprio leggendo quel post che un'amica in piena notte ha chiamato il 112 avvertendo della possibile tragedia. Quando i soccorsi sono arrivati nella villetta non c'era più nulla da fare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 17 migranti, tutte donne, in un centro di accoglienza nel Pisano sono risultate positive al Covid. Adesso sono state trasferite in alberghi sanitari della provincia. Intanto continuano gli arrivi a Lampedusa. In attesa del vertice di Bruxelles sull'immigrazione che si terrà mercoledì e che dovrebbe sancire il superamento di Dublino, continuano gli arrivi in Italia. 26 sbarchi autonomi 24 ore a Lampedusa, dove da luglio la situazione è difficile. Stamattina erano 1.200 gli ospiti dell'hotspot, a fronte di una capienza massima di 192. Da fonti del Viminale si apprende che oggi inizierà l'operazione di parziale svuotamento del centro, con il trasferimento di circa 500 migranti sulla nave Rhapsody, dove rimarranno per la quarantena. Sono quasi tutti tunisini. Piccoli arrivi anche ad Agrigento, 82 persone, e in Sardegna, dove sono arrivati 6 algerini, compresa una donna con un bambino di appena un anno. Da luglio l'Italia è tornata ad essere il principale approdo di migranti in Europa, dopo che per 3 anni erano state Grecia e Spagna a ricevere il maggior numero di persone. Sono oltre 21.000 i migranti arrivati da inizio anno nel nostro paese, contro 6.500 sbarcati l'anno scorso, numeri però in assoluto molto distanti dall'emergenza del 2015-2016. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in Bielorussia, dove proseguono le proteste dell'opposizione contro la rielezione del presidente Lukashenko. Ieri sono state fermate oltre 100 persone durante queste manifestazioni. Sosterremo un dialogo interno inclusivo per elezioni libere e giuste, ha detto oggi il rappresentante per la politica estera europea Borrell. Si parla di Bielorussia, ma si pensa all'Europa che, se vuole contare, è proprio tempo che cambi. Il pressing europeo su Minsk si impantana in una serie di polemiche interne che vede la piccola Cipro nel ruolo del cattivo. La lista delle sanzioni ad personam nei confronti dei vertici del governo Lukashenko è ostaggio del diritto di veto implicito di un singolo paese e della sua agenda. Nicosia però non ci sta, spiega che chiede solo che la stessa fermezza mezza si è applicata a Erdogan e alla minaccia turca nel Mediterraneo. Due questioni politicamente distinte, che rallentano però l'azione europea e la espongono alla storica inconsistenza politica. In questo caso i rappresentanti di 1 milione di ciprioti pesano più di quelli degli altri 420. Ma essere in minoranza, anche se nazionale, non può essere una colpa, e Nicosia sa bene che non avrà molte altre occasioni per farsi sentire. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Rientriamo in Italia per parlare di scuola, perché questa settimana è previsto l'avvio anche nelle regioni che avevano spostato l'inizio delle lezioni a dopo il voto. Ma per esempio in Campania, a Torre del Greco, il sindaco ha già deciso di posticipare nuovamente. Iniziano a esserci anche classi che si sono dovute fermare per casi di positività. Chiusa la tornata elettorale, sanificate le aule a tempo di record, si torna a scuola domani in Sardegna. Giovedì sarà la volta di Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Campania. Una riapertura però a macchia di leopardo in un anno complicato per la gestione della pandemia. Ogni giorno arriva la notizia di classi costrette a chiudere per la presenza di studenti o insegnanti risultati positivi. In Puglia dunque, nei comuni di Andria, Terni, Adelphi e Bitonto, i sindaci hanno deciso di rinviare al 28 settembre, quindi si parla di lunedì della prossima settimana. Stesso giorno per Torre Annunziata in provincia di Napoli e ultima in ordine di tempo, sempre nel napoletano, Torre del Greco, dove gli studenti dovranno aspettare fino al 1 ottobre per tornare sui banchi, sempre che i famosi banchi di Arcuri siano nel frattempo a quel punto arrivati. Poi, spiegano i presidi, si attenderanno dal Ministero disposizioni per capire come garantire 200 giorni di scuola necessari perché l'anno scolastico risulti valido. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Il calcio avvia tra sabato e domenica il campionato di Serie A. Esordio positivo per Juve e Napoli. Stasera tocca al Milan, ma non finisce qua. Carlo Genta. Ciao Alessio. Ben ritrovato, Carlo. Anche a te. Non finisce qua perché? No, non finisce qua perché, vabbè, campionato spezzettato. Perché, insomma, c'è il posticipo che è stato chiesto e concesso a Inter, Lazio, Atalanta. Infatti mercoledì si chiude questa prima giornata con Benevento, Inter, Udinese, Spezia e Lazio, Atalanta, e oggi c'è Milan-Bologna. Insomma, è un po' come sbirciare il nuovo campionato dal buco della serratura, ne vedi un pezzettino per volta. Ieri abbiamo visto due pezzettini piuttosto importanti. Ieri sera la Juventus, la prima di Pirlo, notte da debuttanti, debutto di Pirlo in panchina, debutto al gol di Kulusevski che ha aperto la stagione juventina con un gol al 12esimo, nuovo acquisto, e Juventus che ha vinto 3-0 contro la Sampdoria. Bel Napoli, ne segue un altro nuovo acquisto, Osimhen. Oggi giorno di Vidal all'Inter, calciomercato che rimarrà aperto fino al 1 ottobre, molto impegnativo, faticoso, ogni acquisto una specie di parto cesareo. Grazie Carlo Genta. Appuntamento con te e tutti i convocati dopo le 14, naturalmente. Noi alle 13:13 minuti facciamo un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, collegamenti dalle regioni in bilico per quanto riguarda le elezioni regionali Puglia e Toscana, e poi insieme ad un professore di psicologia della Cattolica cercheremo di capire e commentare i fatti di Torino. Ci sentiamo tra poco. 349-238-6666. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti, vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il Covid non molla la presa in Francia, oltre la metà del paese diventa zona rossa. Elezioni, seggi aperti ancora fino alle 15, poi via lo spoglio di referendum regionali. Ieri sera affluenza al 40%. Tragedia a Rivara, nel torinese un uomo di 47 anni spara al figlio e poi si toglie la vita. Calcio Serie A al via con le vittorie di Juve e Napoli, stasera tocca al Milan. 13:17, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, come anticipato, andiamo nelle regioni dove il voto è in bilico e dove c'è molta attesa anche per il risultato, perché si tratta della Toscana e della Puglia, due regioni che potrebbero avere anche, per quanto riguarda il voto appunto per le amministrative, una ricaduta anche a livello nazionale. Andiamo subito a Firenze, intanto, con Silvia Pieraccini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Per sentire come è andata questa seconda giornata di votazioni, ieri sera a livello nazionale un'affluenza di quasi il 40% per il referendum, un po' più alta anche in Toscana per quanto riguarda il voto regionale. Silvia. Sì, esattamente. In Toscana ieri sera è l'ultimo dato che abbiamo, quello dell'affluenza alle ore 23. Per le elezioni regionali aveva votato quasi il 46% degli elettori, 45,9%. Il fatto singolare è che sono di più coloro che invece hanno preso la scheda per il referendum, perché al voto per il referendum in Toscana si è presentato il 48,3% degli elettori. Cioè, quindi ci sono persone che si sono presentate al seggio, sì, hanno preso la scheda per il referendum, ma non hanno votato, non hanno voluto la scheda per l'elezione regionale. Evidentemente, sulla base dei dati di affluenza resi noti dal Viminale, in questo momento c'è una percentuale di differenza del 2,4% tra coloro che hanno votato per il referendum e coloro che hanno votato per le regionali, a vantaggio di coloro che hanno votato per il referendum. Esattamente. Sono comunque percentuali abbastanza alte, perché noi dobbiamo considerare che 5 anni fa, quando fu confermato alla presidenza della regione toscana Enrico Rossi, l'affluenza fu del 48,3%, quindi sarà con tutta probabilità superata questa percentuale. Un'affluenza che è destinata a risultare più alta rispetto all'ultimo voto per le regionali. Non so se hai dati anche per quanto riguarda alcune province in particolare in cui, sì, si è votato, allora, di affluenza da darci. Esatto, allora chiaramente i comuni più che hanno un maggior numero di elettori sono quello di Firenze, quello di Livorno e quello di Prato, che sono anche appunto i comuni a cui si guarda con maggior interesse. A Firenze ieri sera, sempre alle 23, aveva votato quasi il 50% degli elettori, 49,7. A Prato si era superato il 50%, 50,5, e a Livorno eravamo al 41,6%. Tutte le province toscane, che sono 10, sono sopra il 40% appunto di votanti. Sì, e il comune in cui si era votato di più era un piccolo comune del Casentino, quindi provincia di Arezzo, si chiama Cafolona, e aveva votato ieri sera il 54,8%, a pochissima distanza da un comune del Mugello, quindi provincia di Firenze, Vaglia, dove aveva votato il 54,7%. Grazie Silvia Pieraccini, grazie per essere stata con noi, la ritroveremo naturalmente all'interno dello speciale a partire dalle 15, quando cominceremo a sapere l'esito di queste elezioni. Ci spostiamo in Puglia, Lucia De Mari, anche qui, buongiorno Lucia. Buongiorno, buongiorno da Bari. Ti chiediamo di raccontarci un po' la cronaca di questa giornata di oggi, tenendo a mente che appunto i dati sull'affluenza sono relativi ancora a ieri sera, Lucia. Ieri sera alle 23, i pugliesi chiamati ad esprimere il proprio voto questa volta sono stati 3,5 milioni, e ieri sera alle 23 avevano votato il 43,74% per quanto riguarda il referendum costituzionale, mentre per le regionali il 39,8%. In Puglia si vota anche per 49 comuni, per 49 rinnovi di amministrazioni comunali, e hanno votato alle 23 di ieri sera il 49,09%. C'è naturalmente il rinnovo del Consiglio regionale con 50 seggi a disposizione, e 49 appunto i comuni, e la particolarità di questa elezione regionale in particolare è che ci sono 8 candidati con 29 liste e 1.300 aspiranti consiglieri regionali, e la nota di colore è stata l'ampiezza della scheda arancione per le regionali, che ha creato non poche difficoltà per gli elettori, rimasti parecchi minuti ad aprirla e soprattutto a richiuderla in maniera giusta. È diventata anche una cosa virale questa della scheda regionale arancione per il rinnovo del Consiglio della Regione Puglia. Quindi ancora qualche ora per votare, alle 13 ci sarà la chiusura dei seggi, quindi il dato finale. Non ci sono raffronti con le precedenti elezioni, perché nelle precedenti, al 2015, si è votato in una sola giornata di domenica, mentre questa volta sono due le In quel le caso giornate, quale fu il dato dell'affluenza per le elezioni regionali, per esempio nell'ultima tornata, anche se non raffrontabile, nel senso che questa volta si voterà per più tempo, quale fu il... In questo momento non ho il dato del 2015, quando fu eletto appunto comunque il governatore uscente pugliese Emiliano. Grazie Lucia De Mari. Sì, ci risentiamo anche con te naturalmente più tardi, a partire dalle 15, quando seguiremo i risultati di queste elezioni. Vi ricordo che ci sarà prima lo spoglio del voto per il referendum, poi quello per le regionali. Adesso ci prendiamo una pausa, diciamo, di leggerezza. Sono stati assegnati ieri gli Emmy Awards, gli Oscar della TV, evento che è stato trasmesso in diretta streaming, quindi con tutte le star del mondo della televisione e del cinema collegate da casa. Tra le serie premiate, Succession e Schitt's Creek. Adriana Fracchia. Nell'anno della pandemia è successo di tutto, persino che a dominare la cerimonia di consegna degli Oscar della televisione americana sia stata una serie canadese. La 72esima edizione degli Emmy Awards, presentati per la prima volta in versione virtuale a causa del coronavirus e ribattezzati dal conduttore Jimmy Kimmel, oh, hello and welcome to the pandemies, ha sancito il successo di Schitt's Creek, vincitrice in tutte e sette le categorie comedy in cui era nominata, compresa miglior regia e miglior sceneggiatore. La sitcom canadese, trasmessa su CBC Television dal gennaio 2015 e ancora inedita in Italia, è passata inosservata per le prime quattro stagioni prima di diventare un successo su Netflix. Sul fronte drama invece, in cetta di premi per Succession, trasmesso da noi su Sky Atlantic dall'ottobre del 2018, che rispettando le previsioni della vigilia si è portata a casa non solo l'Emmy come miglior serie drammatica, ma anche quella per il miglior attore, la miglior regia e la miglior sceneggiatura della categoria. Netflix per la prima volta ha superato la HBO per numero di nomination, anche se nonostante la fine del Trono di Spade e dei suoi incredibili numeri a livello globale, lo scettro di miglior serie TV drama è rimasto alla HBO, che ha dominato tra i network con 11 premi, mentre Netflix di Emmy ne ha avuti solo due. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, è con noi adesso Fabio Sbattella, ordinario di psicologia clinica e dell'emergenza all'Università Cattolica. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori. Con lei vogliamo cercare di capire meglio e di commentare per quanto possibile la notizia che è arrivata nella notte dal Torinese, dove un uomo di 47 anni era un operaio di un'azienda meccanica, ha utilizzato la pistola che tra l'altro deteneva illegalmente per uccidere il figlio di 11 anni, una notizia tragica, e poi poco dopo con la stessa arma si è tolto la vita. L'allarme era stato, a dire la verità, lanciato poco tempo prima tramite i social network, perché su Facebook aveva scritto un messaggio questa persona nella quale dichiarava di soffrire depressione e lasciava intendere che aveva, diciamo, intenzione di farla finita. Un'amica ha lanciato l'allarme, ma quando poi sono intervenuti le forze dell'ordine era troppo tardi. Sbattella, la prima cosa che le voglio chiedere, questo è un caso che viene classificabile come omicidio-suicidio, no? Purtroppo non isolato. Che tipo di... Se è d'accordo su questo, e che tipo di fenomeno è questo? Sicuramente questa è la categoria a cui appartiene, e innanzitutto... una cosa assolutamente drammatica, orribile e fortunatamente rara. Io direi anche necessario dire ai bambini che indirettamente poi ricevono queste notizie: sappiate che gli adulti sono orripilati, sono molto stupiti, perché non tutti i padri sono così. Fortunatamente moltissime persone che sono depresse, non fanno questo, siamo veramente nel silenzio orripilati perché è orribile. Certo, noi adesso abbiamo molta attenzione sul coronavirus, ma tutti i giorni abbiamo 11, 10, 12 suicidi in Italia, no? E in Italia la depressione, se poi fosse vera questa autodiagnosi, che è sempre discutibile l'autodiagnosi, però bisogna sapere che in Italia l'11% della popolazione nell'arco di vita soffre di distimie, tra questi si parla di 1 milione almeno di depressioni gravi, 3 milioni di depressioni, quindi la sofferenza è assolutamente tra noi, e non magari in termini della depressione, ma di altre sofferenze, comunque porta anche a questi drammi tremendi. Mi colpisce nella notizia, ed è molto importante, sì, che in tempi di isolamento sociale qualcuno è comunque riuscito ad accorgersi, magari in ritardo, magari indirettamente, non lo so, ma a raccogliere un messaggio e ad attivare per quello che poteva qualcuno che purtroppo maledettamente è arrivato tardi. Ma questo è estremamente importante, perché dato per accertato che la sofferenza, la disoccupazione, la rabbia, tante sofferenze umane siano diffuse, qual è il segno di speranza che noi abbiamo? Tre risorse abbiamo come umanità, no? Primo, osservare e saper accorgersi che qualcuno sta male, che qualcuno a bordo strada, che qualcuno non ce la fa, magari anche qualcuno che prima ce la faceva, perché sono fasi della vita. Secondo, la grande risorsa, che è piuttosto difficile, chiedere aiuto. Molto spesso chiedere aiuto allo psicologo, al sistema sociale, ai servizi, ai vicini di casa, ai carabinieri, sembra un'umiliazione, quindi ci vuole il coraggio di chiedere aiuto. E la terza risorsa che abbiamo è quella di fare un passo in avanti, sapendo che aiutare è estremamente faticoso. La depressione, se depressione si tratta, è una gran brutta bestia, la sofferenza umana che si rintana, delira, a volte è molto difficile da aiutare, non è così facile. E quindi esprimere solidarietà concretamente significa anche prepararsi a immaginare che non è facile aiutare. Un percorso non facile comunque per chi sta vicino a queste persone. Però no. Professor Sbattelli, le voglio chiedere un'ultima, con un'altra cosa, perché una persona così, con un figlio di 11 anni, voglio rivolgere l'attenzione proprio al figlio, un figlio che aveva in custodia, una persona del genere doveva sicuramente forse essere aiutato, non so se in casi come questi, lei parla di autodiagnosi, non so se nessuno sa se questa persona era in cura per esempio per una... per questa depressione, se sarebbe stato il caso per esempio di togliere la custodia del figlio. Io le chiedo questo: i nostri servizi, i nostri assistenti sociali, ma anche le procure minorili, sono attive su questo fronte, sono attivate su questo fronte? Si sarebbe potuto fare di più secondo lei in questo caso, per esempio? Ma se si potrebbe fare di più è sempre una domanda controfattuale. Le ipotesi sul passato, dicono gli storici, non lasciano molto. Quello che noi sappiamo è che possiamo fare di meglio sempre, e lo facciamo in futuro, lo faremo in futuro. Teniamo presente, in un convegno del 2019 sulla depressione, colleghi che si occupano di questa cosa in particolare hanno evidenziato che in Italia almeno il 50% di persone diagnosticate gravemente con questa patologia, poi ce ne sono tante altre, no? Non sono curati, non sono presi in carico perché non ci sono risorse. Questo è il primo problema grosso da affrontare, è evidente. Questo è assolutamente. Dopodiché entrare nelle famiglie, nella genitorialità, lei sa benissimo, le cronache ce lo dicono, è estremamente delicato, perché si entra in una situazione di estrema conflittualità tra i coniugi, dove ci sono reciproche accuse, verità e non verità, movimenti continuamente delicati. E i sistemi di protezione che l'Italia ha, molto buoni rispetto all'estero, sono cronicamente insufficienti, mal visti dalla popolazione, incompresi, perché certe azioni consistono poi in messa a protezione dei minori, vuol dire allontanare la persona, anche solo nel periodo necessario per capire esattamente com'è la situazione, no? E quindi ci sono momenti in cui la protezione dei minori purtroppo viene ritardata o viene in qualche modo posposta all'ascolto della genitorialità, che deve comunque essere ascoltata. Grazie professor Sbattella, grazie per essere stato con noi. Fabio Sbattella, di Ordinario Psicologia Clinica all'Università Cattolica. Il dato importante che mi sembra di poter in qualche modo trattenere è questo: 50% delle persone che soffrono di una forma di depressione anche grave non ricevono alcuna cura, non sono in cura, e questo forse è un elemento da cui ripartire per una riflessione più generale. 13:32 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Il Covid non molla la presa in Francia, oltre la metà del paese è a zona rossa. Anche la Gran Bretagna vicina a un nuovo lockdown. Elezioni, seggi aperti ancora per 2 ore, poi alle 15 via lo spoglio di referendum regionali. Ieri sera l'affluenza al 40%. Tragedia a Rivara, nel torinese, un uomo di 47 anni spara al figlio, 11enne, poi si toglie la vita. Calcio Serie A, via con le vittorie di Juventus e Napoli, e stasera tocca al Milan. Minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Tra poco andremo in Gran Bretagna, a Londra, per seguire l'evoluzione dei casi di contagio a coronavirus e gli annunci delle ultime ore del Ministro della Salute, che annuncia praticamente un quasi lockdown per diverse zone del paese. Abbiamo parlato già nella prima parte invece di quello che sta accadendo in Francia, dove metà dei dipartimenti è già zona rossa, e oggi in Francia scatta anche un nuovo protocollo per quanto riguarda la gestione dei casi positivi in classe, a scuola. Ve lo leggo: da domani le classi continueranno le attività didattiche nel caso di un solo studente positivo al tampone, si fermeranno invece per la presenza di 3 casi di positività, lo ha annunciato appunto il ministro dell'istruzione Jean-Michel Blanquer, il quale ha spiegato che al momento sono 2000 le classi ferme per i casi di coronavirus, ma che diminuiranno appunto con queste nuove regole che si basano su un parere dell'Alto Consiglio della Sanità, secondo il quale, questo è importante, i bambini sono a scarso rischio di forme gravi e sono anche soprattutto poco attivi nella trasmissione del virus. Queste le notizie che arrivano dalla Francia. Con questo notizie alle spalle, adesso invece rientriamo in Italia. Sempre parlando di scuola, vi abbiamo raccontato che questa è la settimana nel quale riaprono le scuole dove si sono tenute ferme le lezioni per via del voto. Però a Torre del Greco invece non è così, perché ci sono dei casi di positività. E allora sentiamo l'intervista di Maria Piera Ceci ad una delle dirigenti scolastiche, Rosanna Ammirati, dell'Istituto Comprensivo Don Bosco d'Assisi, una scuola dell'infanzia, primaria e anche scuola media, sul perché hanno tenuto le scuole chiuse, anzi non le riapriranno neanche questa settimana. Noi abbiamo suggerito al sindaco di valutare l'eventualità di rinviare, anche considerato la difficoltà nel sanificare le istituzioni del territorio impegnate nella tornata elettorale. Però la sanificazione avviene in un paio di giorni, quindi insomma dal 20 al primo di ottobre. Però se lei considera che sanificare tutti i locali, a riallestire i locali, perché le aule che ospitano i seggi elettorali vengono sgombrate, quindi c'è necessità di poter in qualche maniera garantire l'apertura in sicurezza. Cioè 10 giorni erano necessari per sanificare le aule? Non 10 giorni, perché noi avremmo dovuto cominciare il 24 di settembre. Il 24 è giovedì, il 25 è venerdì, quindi di fatto poi c'è sabato e domenica, si è ritenuto. E poi c'è anche la mancata consegna dei banchi. Cioè in questo territorio solo in alcune scuole sono stati consegnati i banchi, e noi parliamo di numeri intorno ai 500-600 banchi per ogni scuola che devono essere consegnati, quindi non sono piccoli numeri, differentemente dalle mascherine e del gel che ci è arrivato, ma i banchi non ci sono ancora arrivati. ma è fondamentale. Senta, ma per i bambini più piccoli, la scuola dell'infanzia, che bene o male i banchi servono fino a un certo punto, quelli siete riusciti comunque ad aprire o neanche quello? No, perché l'apertura è per le scuole di ogni ordine e grado. E ora, come anticipato, andiamo a Londra in collegamento con la corrispondente Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia, ben ritrovata. Ciao Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Quali sono le ultime notizie? Insomma, ieri il primo ministro ha fatto sapere che ci saranno anche multe molto salate per chi non rispetta l'autoisolamento, perché è una fase veramente difficile per la Gran Bretagna. Sì, ebbene, io ho ancora i capelli dritti dopo aver visto poco un'ora fa i grafici presentati dai consulenti medico e scientifico del governo, che hanno fatto un quadro drammatico della situazione sul punto di vista dei contagi, che vuole essere un deterrente per l'intera nazione e anche per il governo. Ebbene, pare che al momento ci siano 70.000 britannici che hanno il Covid e, nonostante la media dichiarata dei 3.500 casi al giorno, in realtà siamo a 6.000 contagi al giorno, e questo è un dato che raddoppia ogni 7 giorni. Quindi i consulenti scientifici hanno detto: di questo passo a metà ottobre avremo 50.000 casi al giorno, e a novembre purtroppo potremo arrivare ad oltre 200 morti al giorno. Ecco, allora Giorgia, visto che questi sono i dati, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di chiudere, però voglio chiederti quali sono le misure che si annunciano per quanto riguarda forse Londra in particolare, ma la Gran Bretagna più in generale? Sì, da domani intanto entreranno misure restrittive su per 13,5 milioni di britannici. Atteso un annuncio, un nuovo annuncio del primo ministro Boris Johnson, che dovrebbe annunciare appunto le misure restrittive per Londra e altre parti della Gran Bretagna. Ci si attende che molto probabilmente vengano chiusi i pub, uffici e scuole resteranno aperti ovviamente per salvaguardare l'economia, ma ci saranno restrizioni su chi si potrà incontrare e quando. A domani però sarà il verdetto. Grazie Giorgia Scaturro, dunque in collegamento da Londra, e staremo a vedere. Noi ci fermiamo qua, vi lascio ad hashtag autotrasporti con Andrea Ferro naturalmente per la puntata di oggi, con Jacopo De Franchi in redazione, Pietro Lacorte in regia. È tutto, vi rinnovo l'appuntamento per seguire il risultato delle elezioni a partire dalle 15 con lo speciale di Radio 24. Più tardi. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.